mare di fronte, immergervi tanti pensieri, il suono di voci è lontano, restano a galla quelli più veri. Cose raccontate a nessuno, voglie e paure d'amare, per perdersi in storie inventate, le grido ora dandole al mare. Tempo passato ad aspettare per vederla alcuni momenti, pochi per farle ascoltare con i sospiri i miei sentimenti. Forse un sorriso poi va via, le parole rimangono in gola, intuire sperando sia follia, quando è lontana lei non è sola. Schianto senza fragore, manca l'aria, non c'è sospiro, mal d'amore senza rumore, ferma il cuore, toglie il respiro. Un sussulto viene dal mare, schiaffo d'onda bagna il mio viso, ora il respiro è profondo, sento la vita, torna il sorriso. Quell'ombra, un profumo e una voce che assorto non potevo sentire, una mano ha sfiorato il mio viso, son come te, non posso mentire. Tempo passato ad aspettare per vivere quei pochi momenti, l'altra lasciala stare, getta nell'attimo i tuoi tormenti. Poi un sorriso e va via, nell'aria il suo profumo è rimasto ed ha spento un bruciore, per un'altra io ero nessuno. Pace ed ancora sapore, poi la brezza e il gusto del vino, nell'attimo scoperto l'amore, non è eterno ma riempie il destino.